儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是你的朋友古月。今天和您分享的是意大利作曲家卡塔拉尼创作的歌剧《拉瓦利》，由台湾尔迪、摩纳克、卡普奇利等演唱，齐莱瓦指挥蒙特卡罗歌剧院演出。 siete voi, del cielo avete fatto paura. Io la rimasi fino a sera, quando un tratto l'ave mal mi starve, me ne uscì, era già notte, allor decisi di tornare. Un uomo scendeva lento il sentier dell'ave. Date, ma forse in persona la notte oscura, e ora sentora, non lo fare ancora.

Thank you. Come for a long journey. Oh, Silenzio, la morte laggiù.